Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: oggi faremo soprattutto mercati, intesi non solo come mercati azionari ma anche e soprattutto come mercato del nostro debito, e quindi le emissioni di obbligazioni fatte oggi dall'Italia, ma devo dire anche dalla Spagna. L'Italia ha collocato BOT oggi a un anno e sei mesi, praticamente ha collocato 8 miliardi e mezzo di BOT a un anno e 3 miliardi e mezzo di BOT a sei mesi. E qui sono 12 miliardi, inizia a essere un'asta consistente. La cosa molto importante e molto positiva è che sono crollati i rendimenti, cioè quello che costa a noi indebitarci, come quando uno va in banca a chiedere un prestito, si è abbassato di molto, nel senso che il rendimento dei BOT a 12 mesi è sceso da quasi il 6% dell'ultima asta al 2,7%, è come se andaste in banca e rispetto all'ultima cosa che vi ha chiesto la banca per darvi un prestito vi chiedesse quasi, anzi meno della metà come tasso di interesse, e quindi vuol dire che noi come Italia pagheremo meno quello che è l'interesse sul debito, su questo debito. E anche per i BOT a 6 mesi è crollato dal 3,25% di rendimento, quindi di costo per noi, all'1,60%. Buona anche la domanda, una volta e mezzo, una volta 1,8 l'offerta. Bene anche lo spread. Giustamente un ascoltatore dice attenzione, spieghi cosa vuol dire che interessi e spread non sono la stessa cosa. Allora, l'interesse, il tasso di interesse è quello che a noi interessa di più, scusate il gioco di parole, perché è da lì che capiamo quanto ci costa finanziare il nostro debito. Lo spread è un indicatore sull'affidabilità di un paese ed è la differenza tra quanto costa a noi indebitarci come interessi e quanto costa la Germania. È chiaro che potrebbe essere, per esempio nel caso che la Germania, non è previsto, ma insomma che la Germania aumenti i suoi tassi di interesse, potrebbe ridursi lo spread, che è una differenza, ma per noi potrebbe essere sempre molto caro indebitarci. Faccio l'esempio: se i tassi di interesse tedeschi andassero al 3%, al 4% e i nostri restassero al 7%, lo spread scenderebbe a 300 punti, cioè il 3%, ma per noi resterebbe molto molto caro indebitarci. Allo stesso modo, quello che sta capitando, se la Germania continua ad avere tassi di interesse in calo e quindi vicini allo zero, lo spread nostro può restare alto, ma anche se cala il tasso di interesse che dobbiamo offrire per trovare finanziatori, perché lo spread è una differenza. Allora, la cosa più importante, e concludo, è quanto paghiamo sul debito, e quindi se paghiamo il 6 come nell'asta dei BOT a 12 mesi dell'anno scorso, o se paghiamo il 2,70 come oggi, perché quelli sono soldi che dobbiamo tirare fuori a scadenza. Dopo un anno bisogna ridare gli 8 miliardi e mezzo fra un anno di BOT che abbiamo collocato, con un tasso di interesse che in questo caso per fortuna è stato del 2,70%. Ottima la reazione della borsa, Milano è la borsa migliore e praticamente quasi l'unica positiva, nel senso che Francoforte guadagna lo 0,40, Parigi è invariata, Londra perde lo 0,30, l'America perde lo 0,30, Milano più 2,1. Ottimo l'andamento dei titoli bancari, sospesi anche per eccesso di rialzo. Mi riferisco a Unicredit più 12,35% in questo momento, a 2,86 €. Monte dei Paschi più 8,60 a 23 centesimi di euro. Mediobanca più 7,80 per quello che riguarda il titolo. Ubibanca più 7,50. Popolare di Milano più 5,90. Mediolanum più 4,80. Intesa San Paolo più 4,80%. Banco Popolare più 4,50%. E allora, una volta tanto, sicuramente la prima di quest'anno, speriamo non l'ultima, festeggiamo. Allora, vedo già alcuni ascoltatori che hanno iniziato male l'anno, ma che è successo, no? Tutti offensivi, mi dispiace, perché le cose sono molto chiare. E date le campane, adesso andiamo invece anche alla cautela. Uno spread che resta a 470 punti è meglio, e qui siamo alla Catalano, di uno spread a 520, ma è uno spread troppo alto. Cioè noi non possiamo avere sui BTP a 10 anni ancora un rendimento del 6,80-6,60%, è troppo alto, non ho nessun problema a dirlo. Finché non vedrò la differenza intorno ai 250-230 punti, nessuno potrà parlare di uno spread accettabile, quindi di un costo accettabile per l'Italia nel rifinanziarsi. Su questo non ci sono dubbi, quindi tenete gli insulti per cose più serie. A meno che ci non sia qualcuno che sta rosicando per qualche motivo, magari un notaio, un farmacista, vedo anche alcuni tassisti. Sui taxi abbiamo spiegato mille volte che non ci sembra un elemento fondamentale per la crescita economica, dopodiché che soprattutto nelle città più piccole e medie ci sia un problema di servizio ai taxi, questo è inutile che continuiamo a dirlo. Però non è da lì che parte la ripresa, non l'abbiamo mai detto. Su. E allora parliamo di liberalizzazioni, così alcuni soggetti interessati si arrabbieranno ancora di più. Ricordo che però ieri con Antonio Polito abbiamo anche spiegato che un governo che non faccia il debole con i forti, ma il forte con i deboli, deve anche mettere mano alle liberalizzazioni in settori che valgono tantissimo: l'energia, il gas, le ferrovie, il mondo bancario si può fare di più, cioè fare il forte con i forti. Su questo la nostra opinione è netta: si fanno le liberalizzazioni sul commercio, sui notai, sulle farmacie, su tutti i servizi incagliati, sulle tariffe minime degli avvocati, dei notai, degli ingegneri, sugli ordini professionali, incluso quello dei giornalisti, però si attaccano anche magari le municipalizzate e il loro ruolo di controllo e monopolio e i loro costi, si attaccano anche i grandi gruppi petroliferi energetici, nel caso di Eni la separazione della rete col gas, le ferrovie dello Stato, veramente la concorrenza sui binari e non le FS che tentano di fare ogni tanto di ostacolare la cosa, e via così, le poste e quant'altro. E allora parliamo di liberalizzazioni. Da quello che sta emergendo c'è l'ipotesi appunto che non vi sia l'articolo 18 in caso di fusioni o incorporazioni fino a 50 dipendenti, e quindi scomparirebbe. Per quello che riguarda le farmacie, portare una farmacia a ogni 3.000 abitanti come media, e ancora sui notai 1.000 notai in più entro il 2013, i liberi professionisti, avvocati, notai compresi, tutti. Praticamente scompariranno le tariffe minime, i compensi dovranno essere oggetto di accordo con il cliente, a cui dovrà essere fornito obbligatoriamente un preventivo. Per i negozi potranno decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, a me sembra una cosa giusta, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni, così ognuno, se vuole, un negoziante, fare un saldo, una promozione in un certo periodo, non si capisce perché non possa farlo, è roba medievale. E vale anche per gli orari, non ho nessun problema a dirlo. Dopodiché, se un negozio gestito da una famiglia farà gli orari che riesce a fare, ma non ha senso avere tutti i fruttivendoli o tutti gli alimentari che aprono e chiudono alla stessa ora. Non esiste in nessun altro paese. Ci sono negozi piccoli che lavorano con prezzi più alti perché offrono i prodotti la sera o in orari in cui gli altri sono chiusi. Andate a farvi un giro nel resto d'Europa, lo dico a chi contesta, su. Ci chiedete perché non abbiamo mandato il gallo, perché il gallo può attirare il gufo, e allora per scaramanzia il gallo lo mandiamo quando le cose si stabilizzano, sperando che si stabilizzino. Sulle liberalizzazioni però oggi da segnalare, in una giornata molto molto intensa sul fronte politico, il no a Cosentino, il no al referendum, anche la dichiarazione di Silvio Berlusconi, che ha detto no alle liberalizzazioni inutili, ma solo a quelle che aiutano a sviluppare l'economia. Parlando poi di alcune categorie come quelle dei farmacisti, Berlusconi ha aggiunto: rischiano in questo modo di chiudere. Mario Monti è intervenuto, Presidente del Consiglio, invece alla Camera, dopo l'incontro di ieri con Angela Merkel, e ha detto: attenzione, ci sono degli interventi interni che sono indissolubili rispetto all'azione dell'Unione Europea. Dobbiamo giocare un ruolo attivo in Europa, ci sono delle cose che dobbiamo fare noi e delle cose che deve fare l'Europa. Sentiamo questo passaggio. L'Italia deve giocare un ruolo attivo per contribuire a condurre l'Europa di nuovo sul cammino della stabilità e della crescita, stabilità e crescita. E è quasi indissociabile l'azione che conduciamo all'interno del Paese con le politiche di risanamento e con le politiche di crescita rispetto all'azione che cerchiamo di svolgere in Europa per spingere l'Europa sul cammino della stabilità e della crescita. Non ho dato l'oro e il petrolio, avete ragione, oro ancora in rialzo a 1657 dollari l'once, petrolio in rialzo a 101 dollari. Parliamo tra pochissimo della Banca Centrale Europea, di quello che ha detto Mario Draghi, che ha gettato acqua sul fuoco lasciando i tassi invariati, però vorrei continuare sulle liberalizzazioni, perché l'Unione Petrolifera, io adesso non capisco più niente, magari domani cerchiamo De Vita, perché il Presidente ha detto due giorni fa dell'Unione Petrolifera che il motivo della benzina così alta era dovuto alla mancanza, alla scarsezza di self-service in questo paese. Mi sembrava un po', ma, un po' eccessivo, solo colpa dei benzinai, niente da dire sulle compagnie petrolifere o sulle accise. Però oggi torna l'Unione Petrolifera e dice: l'industria petrolifera è totalmente contraria alle misure per la liberalizzazione del settore benzina. Che già che sia contraria all'industria petrolifera, forse è un buon motivo per farle, aggiungo io. Che se confermate rappresenterebbero un vero e proprio esproprio a danno delle aziende. Beh, adesso non è che non facciano utili le compagnie petrolifere, minerebbero la capacità di garantire l'approvvigionamento energetico del paese. Mamma mia, e che? Secondo la bozza del decreto, le compagnie dovranno accedere a nuovi imprenditori. Questo prevede il decreto. Io non capisco perché si bloccherebbe l'approvvigionamento energetico del paese, a meno che non vogliamo fare terrorismo mediatico. La bozza del decreto prevede che le compagnie petrolifere dovranno accedere a nuovi imprenditori o a consorzi di attuali gestori almeno un terzo delle stazioni di servizio, che potranno diventare polifunzionali. Quindi i benzinai di queste nuove stazioni di servizio potranno acquistare almeno il 20% del carburante da qualunque fornitore. Cioè uno potrà avere acquistato dall'Agip, dall'Esso, dalla Total, no? E anche lì metterà probabilmente il gestore in concorrenza le compagnie petrolifere e dirà: quanto mi fai Agip, Esso, Total? E in base all'accordo sceglierà, mi sembra giusto per i gestori, oltre che i gestori potranno anche vendere altri prodotti come avviene nel resto d'Europa, se uno vuole comprarsi una Coca-Cola, un giornale. Nel frattempo, mentre l'Unione Petrolifera minaccia il blocco addirittura dell'approvvigionamento energetico, la benzina continua a volare a 1,177 euro, record anche il diesel a 1,73 euro. Lì non abbiamo niente da dire. De Vita, domani la chiamiamo e la invitiamo, perché non è che si può parlare solo di quando le liberalizzazioni non piacciono alle compagnie petrolifere, parliamo anche di sto prezzo del petrolio. E poi sui taxi, sono d'accordo con quanto scrivono alcuni ascoltatori, i taxi sono fermi, li vediamo anche noi che non c'è lavoro, ed è ovvio che c'è poco lavoro, ed è ovvio che con una recessione in atto pure i tassisti soffrono, ci mancherebbe, massimo rispetto su questo. L'autority di garanzia sugli scioperi ha precisato però che un blocco totale del servizio dei taxi non potrebbe essere considerato legittimo, precisando che nel caso l'autorità ha l'obbligo di intervenire con i poteri che la legge gli attribuisce, quindi sta seguendo con molta attenzione l'evolversi della vicenda. Ancora due notizie, magari con questa qui mettiamo un po' a tacere chi sostiene che liberalizzare non serve. Questo è un paese che quanto a libertà economica è sceso al 92esimo posto. La classifica non la faccio io, non la fa il governo Monti, la fa il Wall Street Journal. Ci vogliamo fidare del Wall Street Journal? 92esimo posto, praticamente siamo inefficienti, corrotti e spendaccioni. Questo emerge dalla classifica. Siamo penultimi nei livelli europei, davanti solo alla Grecia, e non mi sembra, con tutto rispetto per i greci, una gran posizione, e abbiamo perso 5 posizioni sul 2011. Vogliamo parlare anche di questo? io ripeto, se si farà capire che le liberalizzazioni servono a tutti, che magari il farmacista ci rimette un po' ma poi ci guadagna magari quando va dal notaio, dall'avvocato, quando va alla pompa di benzina, e viceversa il benzinaio ci guadagna quando va in farmacia, quando va dall'avvocato, e se si scontentano tutti forse ce la facciamo, perché qua le liberalizzazioni, ogni categoria vuole solo le liberalizzazioni degli altri, mai della sua. Ma questo in Italia è abbastanza tipico. Produzione industriale meno 4% a novembre rispetto a novembre del 2010, quindi il dato peggiore dal dicembre del 2009, e questi sono dolori sull'ingresso nel 2011. E produzione di dicembre, secondo il Centro Studi di Confindustria, vi sarà un calo anche a dicembre, meno 0,7%. Ultima notizia, poi passiamo a Francoforte, il nostro racconto di cos'è questa crisi. Ma cos'è questa crisi? La crisi. Una sola notizia oggi ci ha incuriosito. Gli spagnoli e i greci si stanno iscrivendo in massa ai corsi di tedesco per imparare appunto la lingua di Goethe. Praticamente è una storia molto carina pubblicata oggi dal Financial Times. Tutte le iscrizioni nella City di Londra e al Goethe Institute di Francoforte sono aumentate soprattutto le iscrizioni di greci e spagnoli, sia perché l'immagine della Germania è certamente migliorata, è il paese che tira di più in questo momento, ma anche perché greci e spagnoli, con i tassi di disoccupazione che si ritrovano, giustamente i più svegli cercano di trovarsi anche, quelli che possono, un'alternativa, e allora la corsa a studiare il tedesco. Ma cos'è questa crisi? La crisi. Sì, tra l'altro, un numero interessante: in Germania sono arrivate 84 scusatemi, il numero di greci che si è trasferito a lavorare in Germania è salito dell'84% nel 2011 e del 50% il numero di spagnoli che si è trasferito in Germania a lavorare sempre nel 2011. Stiamo parlando di 435.000 persone. Da chi scrive: ma quante volte va dal notaio in farmacia? Beh, magari dal notaio ci vai una volta sola in 5 anni, ma lasci qualche migliaio di euro. E in farmacia invece no, guardate che i prezzi in Francia sono del 40% più bassi. Fate il conto, se avete dei figli, qualche centinaio di euro all'anno non li spende in farmacia, ecco, fate il 40% in meno e poi vediamo. È qualche centinaio di euro di risparmio in un anno, se vi fa schifo. Francoforte. Tassi invariati all'1%, la Banca Centrale Europea. Draghi getta acqua sul fuoco, previsioni economiche incerte. L'economia europea resta esposta a rischi e restano anche i rischi sul debito sovrano, ma l'inflazione sarà sotto il 2% per i prossimi mesi. Ed è urgente, ha detto Draghi, che parta subito, che diventi operativo il fondo salva stati. Quindi il messaggio rivolto alla Germania: fate presto, per citare il bellissimo e ormai celebre titolo del Sole 24 Ore. La messa a disposizione della liquidità e le operazioni di rifinanziamento continueranno a sostenere le banche dell'area euro e di conseguenza il credito all'economia reale. Il ricorso massiccio alle operazioni di rifinanziamento a 3 anni indica che le nostre misure straordinarie stanno fornendo un contributo significativo a migliorare la situazione di finanziamento delle banche. Di conseguenza, si crea sostegno alla fiducia. Inoltre, stiamo lavorando molto per migliorare le misure annunciate a dicembre, che dovrebbero portare un ulteriore supporto all'economia. Come detto più volte in passato, tutte le misure straordinarie sono temporanee. Quanto mi piace l'inglese di Mario Draghi, devo dire anche Monti lo parla bene, no? Anche così. Vabbè, Alessandro Merli, che segue Francoforte, la BCE per il Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. voi. Allora, Draghi getta acqua sul fuoco, deve dire, c'è anche un commento, un passaggio di Draghi però sull'Italia e non solo. Dice: i mercati dovrebbero apprezzare i forti progressi compiuti da alcuni stati dell'area euro. L'hai trovato cautamente speranzoso oppure ancora molto molto molto molto prudente nonostante Merkel e Monti di ieri? Ma Draghi è prudente, credo che la sua prima preoccupazione fosse quella di dire ai governi e ai mercati, dopo le pressioni fortissime questa sottoposta alla BCE nelle settimane, nei mesi scorsi, noi qualcosa l'abbiamo fatto, due tagli dei tassi nelle prime due riunioni in cui io sono stato presidente, il secondo dei quali anche abbastanza contestato da una minoranza all'interno del consiglio direttivo della BCE, una fornitura straordinaria di liquidità alle banche anche a termine molto lungo per cercare di alleviare questa pressione sulla raccolta delle banche che era diventata impossibile sui mercati. Quindi adesso ci aspettiamo che voi facciate qualcosa. Ha dato atto ad alcuni governi, fra cui quello italiano, quello spagnolo, di aver cominciato a mettere in atto il risanamento fiscale e più timidamente anche le riforme strutturali che la BCE aveva chiesto, però ha richiamato fortemente la politica e l'Europa e quindi, come dicevi tu prima, in particolare la Germania, al fatto che bisogna accelerare su quello che lui chiama il fiscal compact, cioè questo insieme di regole fiscali, ma anche l'operatività piena di questi meccanismi di salvataggio dei paesi, insomma i cosiddetti fondi salvastati, l'IFSF e poi quello che gli succederà che sarà l'ISM. Quindi lui dice bene se queste cose vengono approvate il più presto possibile, al più tardi entro fine di gennaio, e poi rendiamole operative. Tra l'altro la BCE si è messa a disposizione dell'IFSF, che dal punto di vista tecnico ci stava capendo assai poco fino a questo momento, per coordinarne le operazioni sul mercato, e anche questa è una cosa che verrà definita nei prossimi giorni. Quindi da un lato Draghi ribadisce quello che ha fatto, sottolinea che soprattutto la fornitura di liquidità alle banche sta cominciando ad avere qualche effetto. L'abbiamo appena sentito in questo fiducia, come sentivamo in questo passaggio, cioè l'asta di liquidità, effetti positivi li sta avendo sulle banche, giustamente. Sì, lui ha ricordato che chi si aspettava che le banche improvvisamente si mettessero, non l'ha detto così esplicitamente, o a fornire credito oppure a comprare titoli di Stato, che le banche hanno un'enorme massa di obbligazioni bancarie in scadenza nei primi mesi di quest'anno, e che una delle motivazioni, se non la motivazione principale della BCE nel fornirgli tanta liquidità, era evitare che le banche stesse si trovassero con l'acqua alla gola nel dover rifinanziare questi prestiti che evidentemente sul mercato in questo momento non sono in grado di finanziare. Dopodiché si vedrà se poi le banche se ce la faranno il credito che ci si aspetta che facciano. Comunque almeno, dice lui, abbiamo evitato questa situazione di emergenza sul fronte della raccolta delle banche. Non solo, ma si comincia a vedere qualche effetto sui tassi. In effetti, se guardiamo i tassi del mercato monetario, hanno reagito molto a questa, molto. Nonostante alcuni ascoltatori che siano dispiaciuti che le cose oggi vadano un po' meglio, forse il cupio di Solvi che li sta ottenebrando, tanto peggio tanto meglio, forse dà fastidio che il governo Monti riesca a ottenere qualcosa, secondo me ancora poco, lo spread è troppo alto e sulle liberalizzazioni bisogna fare di più, però la liquidità, hai ragione a citare il fatto che le banche hanno usato i soldi che gli ha messo a disposizione la BCE in primo luogo per rifinanziare tutti i debiti loro in scadenza. Un'obbligazione bancaria è come quella di uno Stato, è un debito che tu hai contratto che va in scadenza, e quello è servito, diciamo, a tamponare il rischio più grosso, cioè che si bloccasse il mercato bancario, lì allora non ce n'era più per nessuno. Domani ci occuperemo in Focus Economia dell'altro aspetto, perché molti si attendono che a un certo momento le banche questi soldi, invece che ricomprare debiti sovrani, BOT, BTP, o depositarli la sera per la mattina con l'overnight alla Banca Centrale Europea, li usino per darli all'economia, ma su questo andrei cauto e sono obiettivamente un po' scettico. Grazie, hai fatto bene anche Alessandro a ricordare l'appello di Mario Draghi al cosiddetto fiscal compact, cioè praticamente che vi sia una omogeneità fiscale in tutta l'Europa, che non ci si fa, faccia concorrenza tra paesi dell'area euro. Grazie Alessandro Merli. Adesso c'è il meteo. Draghi ha fatto anche un riferimento all'Ungheria e faremo un piccolo approfondimento sull'Ungheria, che è un paese che, secondo il Fondo Monetario Internazionale, deve richiedere l'aiuto perché è sulla bancarotta. Dopo il meteo, poi la borsa, che ha chiuso molto bene in Italia, più 2,1%, più deboli tutte le altre borse europee, fortissimi bancari, addirittura Unicredit ha chiuso con un 13,5% di rialzo, Monte dei Paschi più 8,81%, Mediobanca più 8%. 349-238-6666 per i vostri sms. Diciassette e quaranta minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Parliamo adesso di borse, però tra un attimo, in realtà, perché c'è un paese che ha fatto molto discutere per un premier che così ha dei metodi quantomeno autoritari, per una legge sulla stampa che fa obiettivamente schifo e sembra una cosa che ricorda i peggiori regimi autoritari, più la Cina che l'Europa. Però c'è un paese che in questo momento è in grossissima difficoltà, è l'Ungheria, ed è stata avvisata dal Fondo Monetario Internazionale: se non mette ordine nei suoi conti pubblici, becca prima tra i 27 paesi dell'Unione Europea il blocco dei fondi di coesione. Soprattutto il Fondo Monetario ha detto che dovrà ricorrere aiuti entro giugno. Le sanzioni possono arrivare anche sulle leggi, appunto, ma c'entrano poco con l'economia, varate dal Parlamento di Budapest in contrasto con il diritto europeo, quelle che limitano la libertà di stampa, la riduzione dei poteri della Corte Costituzionale, il pensionamento obbligatorio dei giudici a 62 anni, limitazione dell'indipendenza della banca centrale. Insomma, una roba bella bella democratica. Allora parliamo di Ungheria. E parliamo con il nostro Gigi Donelli, che è andato proprio a Budapest a fare un giro, a capire che cosa sta succedendo sul debito di questo paese. Ed è dal 2004 che l'Ungheria deve rimettere ordine nei suoi conti correnti e non lo fa. Gigi, buonasera innanzitutto. Buonasera Sebastiano. Ti fanno parlare, nonostante la legge ungherese sulla stampa, ti fanno parlare, no? Perché tu sei straniero. Assolutamente. Si entra, si esce liberamente. Budapest è bella come sempre e anzi devo anche dirti che, visto la situazione dei prezzi, è particolarmente da suggerire ai turisti. La cosa paradossale è che tu hai fatto un elenco di cose importantissime, assolutamente condivisibili. Beh, in Ungheria si parla di benzina, si parla di prezzi, si parla di altro. Sai, evidentemente ogni paese poi ha, come sempre, giustamente, i governanti che si merita. Vale per noi e vale anche per l'Ungheria. Ma com'è la situazione? Oggi l'asta è andata abbastanza bene dopo un'asta disastrosa dei titoli di Stato ungheresi la settimana scorsa. Ho visto che oggi... Sì. Prego. Oggi le cose hanno cominciato, diciamo, a funzionare. La sensazione in realtà è che sia arrivato il primo effetto dello stop della canossa cui Orban è stato costretto, del diktat su cui titolano i quotidiani ungheresi questa mattina. Quindi Orban costretto a prendere una posizione, a rallentare la sua marcia, diciamo la sua marcia forzata, immediatamente si assiste a una reazione. Ecco, quello che appunto ti dicevo, qui si parla e sentivo che parlavate di benzina e taxi, paradossale come la preoccupazione oggi prioritaria degli ungheresi sia proprio il prezzo della benzina, i 400 fiorini che sono circa 1,30 euro, ma in un paese che ha un reddito che di fatto è un terzo, una capacità, un potere d'acquisto che di fatto è un terzo quello italiano, insomma è come se da noi la benzina fosse arrivata ai 4 euro. Non chiamarla, perché se va avanti così ci arriviamo, però, però. Senti, ma è vero che comunque la popolarità di Orban, questo simpatico democratico che hanno come Presidente del Consiglio, in realtà è più alta di quanto uno si possa immaginare, anche perché lui è intervenuto contro le banche. Magari questo è un suggerimento anche per Mario Monti, se ce la fa, lavorare contro le banche aumenta la popolarità. Tra l'altro anche Mario Monti è molto popolare. Gli ungheresi hanno un rapporto che è abbastanza sorprendente con l'Italia, comunque senz'altro, come dici. Allora, la questione è abbastanza semplice: circa 1.300.000 famiglie ungheresi sono indebitate fino al collo, con dei mutui che hanno contratto circa 10 anni fa in franchi svizzeri ed euro. I franchi svizzeri erano i più popolari allora, al cambio a 140 fiorini per un franco svizzero. Bene, oggi il franco svizzero, il cambio col fiorino, è a 254. Orban ha imposto per decreto che entro la fine di questo mese si può pagare, estinguere il mutuo a quota 180. Insomma, misure come questa naturalmente fanno pensare gli ungheresi che, come ho detto, hanno gravi preoccupazioni economiche. E quindi, diciamo, alleggerisce, fa tirare un sospiro di sollievo agli ungheresi sui mutui. Ecco spiegata, lo dico in maniera molto seria, il perché anche di una popolarità più alta di quanto non ci si potrebbe attendere, perché è intervenuto su una cosa che tocca a tutti. E anche qui, magari così, senza mutatis mutandis, ma insomma, anche per Mario Monti un suggerimento ci può essere. Sulle banche, secondo me, nel nostro decreto sulla liberalizzazione si può fare un po' di più. Tra l'altro devo dire che però oggi sull'Ungheria è intervenuto anche Mario Draghi, che ha detto preoccupano i limiti posti dalla legge alla banca centrale ungherese, e Barroso di nuovo è intervenuto, il presidente della Commissione europea, ha detto la Commissione userà tutto il suo potere per fare in modo che le leggi ungheresi siano conformi con i valori e i trattati europei. Gigi, un'ultima domanda in una battuta, ma in Ungheria è presente la cattiva stampa di cui godono in Europa? Sì, è presente, è molto presente, e questo forse è uno degli aspetti chiave della questione. Per una gran parte gli ungheresi si sentono accerchiati. L'Ungheria è un paese molto complesso, è un paese bellissimo, affascinante, ripeto, venite tranquillamente perché è rimasto quel posto di sempre, ma parlando con gli ungheresi si scava dopo pochi secondi in una incomprensione storica che affonda addirittura nel Novecento, nella fine della guerra mondiale, e credimi, sembra incredibile, ma è ricorrente, c'è un grande senso di assedio, e naturalmente oggi la speranza anche di molti ungheresi è di avere una sorta di Mario Monti. In realtà l'hanno già individuato, è stato il leader del governo tecnico nel 2008, un economista, un signore che in questi giorni si sta schierando molto apertamente contro Viktor Orban. Vedi, adesso mi diranno che anche questo servizio è stato un modo per portare acqua al mulino di Mario Monti, io non so che faccio. Grazie invece e buon viaggio di rientro al nostro Gigi Donelli. Traffico, poi la borsa e i giudizi dei gestori e degli osservatori su quello che è successo oggi. Ottimo sul fronte della borsa, ottimo anche sul fronte dei rendimenti, buono sul fronte dello spread, troppo presto, vi dico subito il mio giudizio, per cantare vittoria e per iniziare a rallegrarsi. Le campane le abbiamo mandate per scaramanzia. 349-238-6666 per gli sms. Traffico 17:48 minuti. No, sorrido perché c'è un ascoltatore che scrive: la rivolta anti-europea è iniziata in Ungheria. Eh sì, cambiare pusher, no? Borsa. Molto bene Milano, oggi è Milano la borsa che domina, più 2,1%, Parigi meno 0,15%, Francoforte più 0,44%, l'America perde lo 0,20%, Londra ha perso lo 0,22%, l'euro in leggero recupero a quota 1,2821, balzo, raffica di sospensioni per eccesso di rialzo di tutte le banche, Unicredit più 13,53%, Monte dei Paschi più 8,81%, Mediobanca più 8%, Popolare di Milano più 6,50%, Ubibanca più 6,30, Mediolanum più 5,50, Banco Popolare più 4%, come Intesa San Paolo, bene anche Azimut più 3%, Banca Popolare Emilia Romagna più 2,80, negativa Atlantia meno 3,20, Autogrill meno 0,70, come Ansaldo Eni perde mezzo punto percentuale. Eleonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. È chiaro che l'andamento dell'asta dei bot a 6 mesi a un anno di oggi, rendimenti in brusco calo, meno della metà, e spread a 470, che è ancora alto, ma è meglio che a 520, hanno dato là alle borse. Ci sono però altri elementi, perché in America abbiamo visto un'incertezza più forte. Eleonora. Sì, esatto, infatti oggi i dati americani non sono stati affatto buoni, e questo spiega perché le borse europee hanno rallentato il passo. Parigi ha chiuso ad esempio in calo dello 0,15% e Wall Street, come hai già detto tu, non va affatto bene. E soprattutto è balzato all'occhio il fatto che le vendite al dettaglio in dicembre, mese in cui usualmente tendono a salire, sono salite ma solamente dello 0,1%, più che altro per le vendite di auto, anzi, senza considerare le auto, le vendite negli Stati Uniti sarebbero calate dello 0,2%, e ricordiamo che le vendite sono il vero motore dell'economia americana, quindi questo ha destato preoccupazione e ha riportato appunto gli investitori un po' alla realtà. Peraltro più o meno nello stesso momento parlava anche Draghi e ricordava che comunque lo scenario rimane improntato all'incertezza. Eh sì, tra l'altro sulle banche italiane, oltre agli acquisti generalizzati dovuti ai motivi che spiegavamo, Ci sono anche notizie però specifiche, Monte dei Paschi e Banco Popolare da un lato, ma anche Unicredit dall'altro. Eleonora. Sì, allora in primis comunque le banche oggi sono andate tutte bene, perché ricordiamo che sono i principali investitori in titoli di Stato, i forzieri delle banche sono ricche di titoli di Stato e ovviamente se se il prezzo sale ovviamente ne beneficiano, e questo va a impattare direttamente anche sulla valutazione delle banche. MPS è una delle banche più esposte sui titoli di Stato, soprattutto a lunga scadenza, e quindi non poteva che festeggiare oggi. Peraltro si è tenuto il consiglio di amministrazione della banca, si è concluso poco fa con la notizia che Fabrizio Viola, come da copione peraltro, è stato nominato direttore generale della banca. Poi comunque ci sono notizie anche su altri istituti. Banco Popolare è salito del 4%, come hai sottolineato tu. Oggi il presidente Frattapasini ha sottolineato per l'ennesima volta che la banca non dovrà ricorrere a un nuovo aumento di capitale. L'anno scorso l'aveva fatto per 2 miliardi per rispettare i dettami delle autorità europee. Peraltro ad oggi vale meno dell'aumento di capitale fatto l'anno scorso di 2 miliardi. Poi ci sono i kazaki su Unicredit. Sì, Unicredit si è infiammata soprattutto sull'ipotesi che è rilanciata dal giornale questa mattina e che non pare che sia vera, almeno secondo quanto detto dal portavoce del fondo kazako. Però parrebbe che il fondo del Kazakistan abbia rastrellato azioni, e il giornale questa mattina sosteneva per una quota pari al 5%. Vabbè, ovviamente questo ha dato il là agli acquisti. Sì, ma chiaramente poi, come tu ricordavi, il vero motore di tutto è il fatto che le banche italiane, avendo moltissime obbligazioni italiane, quando migliora l'andamento di queste obbligazioni, migliora anche il loro conto economico, diciamo, non detta così, ma migliora la loro situazione. Fiat, di nuovo in evidenza oggi, più 2,80%, anche Xor più 2,80%, dal suo fronte opposto invece Atlantia, meno 3,20%. Tra l'altro ne approfitto per dire che molti scrivono anche sulle liberalizzazioni delle autostrade. È un po' difficile liberalizzare le autostrade e mettere in concorrenza gestori sulla stessa rete. Quello che si può fare di più è verificare di più che gli investimenti di chi gestisce le autostrade vengano fatti come d'accordi prima di aumentare i pedaggi autostradali. Chiudo l'inciso, Atlantia. Sì, Atlantia è andata male perché si teme che il governo riveda le tariffe, e ovviamente non a favore della stessa società, dei conti della società, è per questo che i titoli sono andati giù e comunque sono stati deboli anche nelle sedute precedenti. Per quanto riguarda invece Fiat, come notavi tu, è andata su più 2,8%, si riavvicina alla soglia dei 4 euro. Gli investitori si interrogano se il 2012 Fiat farà un altro matrimonio dopo quello con la Chrysler. Si parla sempre più di Peugeot. Marchionne ha ribadito che vede un periodo di consolidamento del settore auto in Europa, ma soprattutto anche Peugeot ha confermato che è aperta a qualsiasi tipo di alleanza, sebbene al momento non sono sul piatto, non sono in essere delle trattative, però diciamo c'è apertura a eventuali scenari. Andiamo rapidi su Atlantia, appunto c'è un'ipotesi che il governo possa rivedere le tariffe autostradali, e chiaramente speriamo non a favore della società. Una battuta, veramente una battuta, su Prysmian, l'ex Pirelli Cavi. Prysmian in questo caso è stato un report positivo che ha acceso i riflettori sulla società, ma un report nel quale si sosteneva che la società nel 2012 dovrebbe iniziare a raccogliere i frutti dell'acquisizione di Draka, l'azienda olandese. Poi tra l'altro Prysmian è molto esposta nei paesi emergenti, che sono quelli che alla fine correranno di più anche nel 2012. Eleonora, mi ha infilato un report nel finale, sai che non li voglio i report. Finché le banche non mi dicono quanto hanno di quelle azioni, non voglio sentire il report, ma non è colpa tua. Anzi, grazie, donore Micheli, e ai colleghi di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Restiamo sul tema della giornata di borsa e dei mercati azionari. Vi dico solo i migliori e i peggiori: Antiche Pelletieri più 16,86, Le Buone Società più 13,5, Gemina meno 7,15%. Iniziamo un giro di interviste per capire se siamo alla svolta oggi. Io ringrazio, poi lo sentiremo anche dopo GR, il dottor Vladimiro Giacchè, che è responsabile affari generali del fondo Sator, fondo di private equity fondato nel 2007 da Matteo Arpe. Buonasera, dottor Giacchè. Buonasera. La sentiamo un po' basso, Mi può dire, poi riprendo l'intervista dopo il giro, ma mi dica solo una battuta: siamo al giro di boa, potrebbe essere la svolta, i rendimenti dei bot che crollano, la borsa che festeggia, lo spread a 4,70 dopo Merkel e Monti, oppure no? È presto per dirlo. Penso di poter dire sicuramente questo, che è un po' presto per dirlo. E a quanto deve arrivare lo spread perché, diciamo, lei ritenga che sia, che siamo arrivati a un giro di boa, secondo lei? Ma credo che debba scendere di altri 200 punti base. Quindi fino a che non siamo a 270-250 il gallo lo teniamo in pollaio. Dopodiché invece vorrei capire il suo giudizio, perché lei ha fatto una bellissima analisi tempo fa sull'atteggiamento della Germania, sul giudizio sull'incontro di Angela Merkel e Mario Monti ieri a Berlino dopo il GR. 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, per capire quello che è successo oggi, non nel senso della cronaca, è sicuramente una buona giornata, anzi una bella giornata, con i bancari in rialzo del 13,5% Unicredit, dell'8,80% Monte dei Paschi, dell'8% Mediobanca, e soprattutto con il tasso che noi abbiamo dovuto offrire per trovare sottoscrittori per i nostri bot, sia a 6 mesi che a 1 anno, che è crollato, e questa è un'ottima notizia, vuol dire che ci siamo indebitati complessivamente per qualcosa come 13 miliardi di euro, ma 12 miliardi di euro, scusatemi, ma pagando molto meno rispetto all'ultima asta. Il tasso è crollato infatti dal 5,95% nei bot a 1 anno al 2,70%, ed è crollato per i bot a 6 mesi dal 3,25% all'1,60%. Infine, buono anche l'andamento dello spread, che resta a 470 punti, però molto meglio dei 520 punti. Devo dire che il livello del rendimento dei nostri bot è il più basso da giugno, da quando è partita l'attacco al debito italiano, però una rondine non fa primavera e uno spread e un rendimento non fa sollievo. Vorrei continuare il ragionamento con il responsabile affari generali del Fondo Sator, Vladimiro Giacchè. Lei diceva che è troppo presto, che uno spread quando non sarà 250-260 fino ad allora non sarà tranquillo. Ma il motivo di questo calo oggi, perché anche i bot spagnoli sono andati bene, lei a cosa lo attribuisce, dottor Giacchè? Ma probabilmente c'è una percezione di una maggiore apertura della Germania ad alcune esigenze elementari rappresentate dai paesi attaccati, insomma. Io devo dire, se devo dare un'occhiata al trattato che è stato proposto, al draft del trattato, trovo questa sensazione forse un poco ottimistica. Nel senso che poi alla fine noi, rispetto alle posizioni precedenti, abbiamo un trattato che viene spostato sostanzialmente in là di qualche mese, di un anno sostanzialmente, però non, a mio avviso non risolve i problemi di fondo che alcune nuove norme ponevano soprattutto per l'Italia. Voglio essere molto, molto esplicito: la regola della riduzione del 5% annuo di tutto ciò che cede un debito in rapporto al PIL del 60%, e per noi si tratta della metà del debito ovviamente, perché il nostro, certo, debito è il 120% del PIL, e per noi non fa una differenza mostruosa, no, che parta un anno dopo, un anno prima, perché anche qui mi scusi, faccio dei semplici calcoli, no? Se partisse quest'anno, noi quest'anno pagheremo di interessi sul debito 72 miliardi di euro all'incirca. Oltre a questo dobbiamo metterci una riduzione del 5% del debito, dello stock di debito. Questo significa manovre su, il conto si fa presto, questa riduzione comporterebbe una manovra da 47-48 miliardi di euro. La somma, stiamo parlando di qualcosa che si avvicina ai 120 miliardi di euro di correzione annua, certo, per 20 anni. Francamente credo che nessuno sia in grado guardi, di... Guardi, sono d'accordo con lei, dottor Giacchè, anche perché o riesce a ottenere Mario Monti non solo diciamo, lo spostamento in là di questo rientro sul debito, ma anche che vengano introdotte le variabili diciamo, che riguardano la cosiddetta situazione congiunturale, per cui ci sono delle variabili che l'Italia spinge per introdurre, per esempio come va l'economia, per esempio il rapporto anche non solo del debito ma della ricchezza privata, o se no per noi tornare a ridurre il debito a quei tassi è un massacro ingestibile sostanzialmente, perché 3 punti percentuali di debito in meno per 20 anni vuol dire una manovra aggiuntiva di 45 miliardi all'anno per 20 anni, cioè qui... andiamo a fare altro nella vita. Mi dica una cosa però, lei diceva forse c'è troppo entusiasmo per l'accordo, per le posizioni della Merkel di ieri, magari ci eravamo abituati a posizioni così rigide che anche un leggerissimo ammorbidimento entusiasma, ma la Germania, siamo così sicuri che, come dicevamo tempo fa con la prima classe del Titanic, quando va giù il Titanic non vada giù anche la prima classe, cioè... siamo sicuri che la Germania convenga a tirare la corda fino all'ultimo, oppure come vediamo dai dati sull'export tedesco, sulla produzione industriale tedesca, se si ferma il resto d'Europa la Germania ne risente in maniera brutale? Ma guardi, io sono assolutamente convinto di quello che lei sta dicendo, leverei assolutamente il punto interrogativo, nel senso che io credo che oggi se c'è un rallentamento veramente molto significativo della crescita, o meglio se c'è una depressione in alcuni paesi dell'area, chi ci rimette di più di tutti è la Germania, e se salta l'euro il primo paese che ci perde è la Germania. E questo dovrebbe essere, credo, chiaro. Ci sono ricerche che quantificano il guadagno per la Germania dall'entrata nell'euro veramente in misure molto significative. E allora secondo lei perché la Germania, a mio avviso per alcuni versi anche correttamente, voglio dire, piace o non piace, noi la riforma delle pensioni in tempi così rapidi e tutto un percorso anche di modernizzazione del paese non l'avremmo mai fatta senza la spada di Damocle della Germania oltre che dei mercati, per cui insomma, bisogna anche riconoscere questo, che se fosse per noi, noi siamo cicale su questo, non formiche. Però secondo lei perché la Germania ha preso un atteggiamento così intransigente al rischio quasi di far saltare l'euro, avendone lei per comunque un danno nel caso della fine dell'euro? Ma guardi, secondo me è abbastanza forte un elemento di carattere ideologico, ma ovviamente l'ovvia premessa è che tutti quando tirano la corda pensano che la corda non si rompa, no? Per cui evidentemente ci sono anche proprio dei motivi negoziali, no? Io voglio tenere quello che lei diceva prima, il più possibile da te, e poi magari allento un po' la tensione, no? Quello che è successo, il dato negativo del Consiglio europeo del 9 dicembre è che questa seconda cosa non c'è stata, no? In effetti la valutazione che i mercati hanno dato subito, molto negativa, di quello che è successo un mese fa era proprio su questo. Però io credo che nel caso della Germania ci sia un elemento ideologico molto forte e anche un errore di prospettiva. L'errore di prospettiva è il riferimento ossessivo che fanno all'iperinflazione che avrebbe portato disordine politico e infine la vittoria del nazismo, ne ho già parlato in altra sede, questo è falso storicamente, il nazismo viene fuori dopo 3 anni di feroce deflazione occasionata dalle politiche del cancelliere Brüning dal 30 al 32, cosa molto interessante perché in quel periodo tutti i paesi erano agganciati all'oro, fanno enorme fatica per sganciarsi dall'oro, chi lancia più tardi patisce la recessione peggiore, e questo è abbastanza significativo perché è facile fare i paragoni con euro sì, euro per alcuni paesi. Certo. E poi io credo che ci sia anche un errore di prospettiva, quando la Germania, e qui vorrei introdurre un elemento che forse è un po' nuovo rispetto a tante discussioni, quando la Germania parla di virtù, di vizio e virtù, no? Ci sono le cicale, ci sono le formiche, e questo discorso in parte, con tutte le cautele del caso ovviamente, perché noi abbiamo i buoni motivi per stare attenti a quello che facciamo, andrebbe un po' rovesciato. Cioè io ho appena visto una ricerca splendida pubblicata dal CER, dal Centro Europa Ricerca, che secondo me è uno dei migliori centri di ricerca che abbiamo in Italia, che parla abbastanza chiaro, dal 97 ad oggi, nell'eurozona, rispetto all'eurozona, la Germania ha aumentato le proprie esportazioni del 30% e ha diminuito la propria domanda interna di 15 punti. Allora, qui forse il problema è che anche la Germania ha spinto troppo sulla deflazione salariale. Di fatto, se uno va a vedere i guadagni di produttività, se uno guarda la produttività totale dei fattori tedesca, dal 97 oggi, non è molto diversa da quella francese. Quello che è diverso è l'andamento dei salari. Cioè, lei dice, c'è una Germania che, avendo spinto molto sulla pressione salariale, ha visto calare bruscamente, o comunque continuativamente, la domanda interna e è tutta agganciata all'export. Allora, visto che ci ha raggiunto in studio anche Alessandro Praterotti, che è vice direttore del Sole 24 Ore, ciao Alessandro. Buonasera. E buon anno anche a te, con cui vorrei parlare però di una cosa che tu avevi previsto, quello che è successo oggi. Hai fatto un pezzo ieri dicendo ci sono i furbetti del mercatino che vendono prima e comprano dopo. Ci arriviamo all'asta di oggi dei bot, però facciamo così, un minuto di informazioni sul traffico, poi vorrei sentire anche il tuo commento sull'atteggiamento, diciamo, tedesco, sul tirare la corda e non fare come lo scorpione con la rana. 349-238-6666 per gli sms, traffico. Minuti, allora una notizia e poi torniamo sul tema, notizia appena battuta, anche gli avvocati vanno in sciopero, l'organismo unitario dell'avvocatura ha appena annunciato che sono inaccettabili le previsioni della bozza di decreto sulle liberalizzazioni delle tariffe minime e il tirocinio che riguardano gli avvocati, insomma gli avvocati vogliono le tariffe minime, noi siamo nettamente contrari, non si capisce perché vi devono essere tariffe minime, uno offre quello che vuole il mercato e quanto vale e poi il mercato decide, come in tutte le professioni. Comunque, torniamo a parlare dell'asta di oggi, dell'atteggiamento tedesco che, abbiamo capito tutti, determinerà poi anche il clima futuro in questa area euro. Alessandro Praterotti, prima di arrivare a spiegare che cosa è successo oggi, perché ci sia un motivo anche tecnico, il ragionamento sulla Germania, diceva Vladimiro Giacchè, attenzione, già nel 29 i tedeschi si beccarono il nazismo non per l'inflazione, come recita, diciamo, la vulgata, ma perché furono così severi per tentare di abbassare l'inflazione che i milioni di disoccupati poi andarono a votare, questo lo aggiungo io, il Partito Nazionale Fascista aveva, Nazionale Socialista aveva lo 0,8% dei voti, dopo tre anni si ritrova quasi in maggioranza. Quindi il timore tedesco... Bisogna ricordare anche che in realtà non è per questo che è arrivato il nazismo perché si ruppe l'unione monetaria austro-ungarica con la fine della Prima Guerra Mondiale. E quello è quanto di più equivalente a quello che sarebbe accaduto con l'euro. Quindi non è tanto la lotta all'inflazione, quanto il disastro, l'apocalisse finanziaria che si venne a creare nell'ex impero austro-ungarico, quando, rompendo l'unione monetaria, furono chiuse le frontiere per impedire le fughe di capitali. Questo è il punto di riferimento. Ma detto questo, in realtà sulla Germania io vorrei far notare anche un altro aspetto. Ci dimentichiamo spesso, strada facendo, quello che fanno gli altri e guardiamo soltanto l'aspetto negativo. Forse molti non ricordano che Jürgen Stark, che era nel board della BCE, fu costretto a dimettersi dalla cancelliera Merkel proprio perché aveva un atteggiamento da falco nei confronti della politica che dovevamo prendere per sostenere l'euro e i paesi periferici. Quindi questo, ricordiamocelo, che la Germania non è che è stata un testimone, né un testimone passivo né un rematore contro. La Germania ha fatto molto nei limiti di ciò che era possibile in un anno elettorale, perché ricordiamo che si è votato l'anno scorso in alcuni Länder importanti per la cancelliera Merkel. E la Merkel è stata bastonata. Esattamente. Quindi in un contesto difficile la Germania ha fatto molto. Ma vorrei anche ricordare un'altra cosa, perché molto spesso abbiamo sentito parlare negli ultimi mesi della crisi economica americana che avrebbe devastato il mondo, e vediamo oggi dati americani buoni che dimostrano un'accelerazione della ripresa molto migliore di quella di qualunque economista avesse fatto. Ma soprattutto, come sentivo adesso sull'aspetto dei consumi tedeschi, beh, insomma, mi sembra un'argomentazione molto debole quando agli ultimi dati della disoccupazione in Europa la Germania ci ha detto che è in piena occupazione e che il tasso di disoccupazione è al minimo storico. Sì. Io credo che sia questo che guardano i mercati in questo momento. La forza relativa della stessa esportazione tedesca non deriva più dal marco, perché sta nell'euro, ma deriva da una capacità di poter agire sui prezzi che noi non abbiamo, avendo un elevatissimo contenuto tecnologico che li mette a riparo da qualunque altra ciclicità che subiscono invece i nostri paesi. L'Asia e gli Stati Uniti sono i primi importatori di tecnologia tedesca, beh, a loro non fa né caldo né freddo di quello che succede, intendo dire, delle difficoltà dei resti dei paesi periferici. Certo. Del dell'euro. Per cui io credo che la Germania vada inquadrata in questi termini. Sì, va detto che l'America, uno potrebbe obiettare che l'America sta recuperando bene perché ha avuto una politica, diciamo, opposta a quella tedesca, ha stampato moneta, non ha tenuto quella europea, di quella europea, sì, chiaramente della BCE, è un lapsus freudiano anche perché la BCE sappiamo che è molto sensibile alla Germania, cioè ha stampato moneta, ha fatto quantitative easing e non è solo questo, io ricordo, ve lo dico perché avendo vissuto 14 anni negli Stati Uniti, io l'ho visto quel paese uscire da varie recessioni. L'America ha una flessibilità straordinaria sotto il profilo del mercato del lavoro, ha un livello di produttività che è tra i più alti del mondo e questo dimostra quanto sia più importante la produttività delle svalutazioni competitive. Gli americani è vero che hanno tutto il dollaro artificialmente basso, ma è anche vero che hanno una produttività del lavoro che gli consente, nei casi peggiori, di contenere i danni, nei momenti di ripresa di accelerare il passo e crescere di più. Che sarebbe come dire: attenzione, tu esporti niente anche se svaluti, se quello che esporti non ha contenuto e valore aggiunto. Allora, dottor Giacchè, la sua risposta, perché poi vorrei passare con Praterotti invece a motivi anche tra virgolette tecnici dell'abbassamento oggi dello spread e soprattutto dei tassi di interesse. Giacchè. Primo, non è vero che la Germania ha una disoccupazione ai minimi storici. Quando ero in Germania io negli anni 80 avevo una situazione più bassa dell'attuale. Secondo, il problema è che se noi andiamo a guardare la produttività totale dei fattori, è giustissimo quello che è stato detto sugli Stati Uniti, dal 97 è aumentata del 13%, in Germania è aumentata del 5%, all'incirca quanto è aumentata in Francia. Il problema di una politica basata, e lo dicono i dati, non lo dico io, in buona parte sulla deflazione salariale, è che per definizione in un'area come l'euro, se la fanno tutti, non funziona. Per cui il paradosso che volevo mettere in luce è che le formiche tedesche si sono avvalse grandemente del fatto che in Europa ci fossero le cicale. Vabbè. E credo che questo è il sì, ma infatti, diciamo, no, ma è vero, io però ho parlato appunto di produttività americana, in questo senso non parlavo della produttività tedesca, ma parlavo della forza, del contenuto tecnologico che mette a riparo la Germania, l'export tedesco, dalle fluttuazioni. Su questo di mi sembra che ci sia piena sì, l'ultima cosa che però vorrei aggiungere è che la ripresa dell'export tedesco negli ultimi mesi, e anche questi sono dati, deriva in parte non piccola dalla svalutazione dell'euro, che è stata all'incirca del 20% negli ultimi mesi. Sì, su questo io resto dell'idea, però, Giacchè, obiettivamente, che dati alla mano la Germania esporta per tanti motivi, ma anche perché ha un grande, così come l'Italia, quando ha contenuto e valore aggiunto, va benissimo in Cina, quando ha saputo muoversi, posizionarsi, avere le dimensioni, non essere troppo piccoli. Questo ci porterà, la rifaremo una puntata, perché appena la situazione si calma sui mercati vorrei tornare anche ai temi classici di questo programma. È mesi che lo dico, forse non lo dico più, magari si calma la situazione. Grazie al responsabile affari generale del Fondo Sator, Vladimiro Giacchè. Alessandro Praterotti, in tre minuti, oltre a essere tutti contenti che lo spread è calato e i tassi sui bot sono crollati, tu spiegavi già ieri su Sole 24 Ore che domani dedica 20 pagine a questa nuova iniezione di fiducia per l'Italia sui mercati. Tu spiegavi già ieri però perché esistono anche dei motivi tecnici, li hai chiamati furbetti del mercatino. Chiamato furbetti del mercatino, diciamo così, con una battuta spiritosa, per dire che pur muovendosi nell'ambito di piena legalità e legittimità di poterlo fare, è un po' moralmente, diciamo così, crea qualche dubbio, nel senso che questi soldi che vengono utilizzati dalle banche per comprare i BTP sono soldi che vengono dall'Unione Europea, sono finanziati dalla BCE a tasso 1%, 1,5%, 1%. Allora, giocare facendo arbitraggio da puri speculatori, perché questa è speculazione vera, alla vigilia delle aste di paesi che ti stanno aiutando, beh, dà un po' fastidio. In questo senso era un fastidio un po' da furbetti, è come dire: io ti presto i soldi e tu speculi su di me, dopodiché quando arriviamo all'asta mi dai il segnale che compri, però nei giorni precedenti hai speculato su di me. Cerchiamo di evitare, se fosse possibile, limitare anche questi giochini di arbitraggio che fanno parte di epoche e di periodi che non sono più quelli attuali, perché se fossero soldi veramente guadagnati dalle banche in termini di profitti per attività di prestito all'economia, io posso dire fate quello che volete, ma quando sono soldi che vengono dalle tasche del contribuente europeo, perché sono soldi che arrivano alla BCE dei singoli stati, questo dà più fastidio, e per questo ho usato chiamati furbetti. Detto questo, oggi sono successe cose importanti per arrivare un po' a bomba a quello che mi chiedevi. La cosa importante è la conferma di un trend, ovvero in asta si cominciano a dimezzare i rendimenti. Quindi questo che cosa vuol dire? Che è tornata la fiducia? No, vuol dire che il meccanismo di olio, l'olio che è stato messo negli ingranaggi del mercato finanziario e bancario europeo dalla BCE funziona, sta facendo rigirare il motore. Questo perché? Perché prestare denaro all'1% per poi comprare bot o BTP al 3,5%, al 4%, al 5% garantisce profitti alle banche. Ma attenzione, quello che ancora esiste è che qui abbiamo ben 5 paesi europei, e parlo della UK, Gran Bretagna, Germania, Danimarca, Olanda, Svizzera, che hanno tassi negativi e hanno investitori che continuano a dargli dei soldi quasi pagando per poterseli far custodire. Questo è un elemento distorsivo che bisogna tenere molto d'occhio. Perché? Perché se è vero che da una parte c'è la prudenza, la famosa prudenza che spinge le banche a parcheggiare, diciamo così, anche ad avere tassi negativi, dall'altro potrebbe anche voler dire che ci sono alcuni grossi investitori che ritengono di poter guadagnare sui tassi negativi, come nel caso in cui peggiorassero. E certo, e quindi meglio avere un tasso del meno 0,1 se poi pensi che vada a meno 0. Bisogna stare attenti a meno 0,5. Grazie Alessandro, grazie anche per questo, d'accordissimo con te che insomma vedere le banche che utilizzano i soldi di Mario Draghi per speculare sui debiti e non, che non sono soldi che hanno guadagnato, non è bello, però mi sembra innegabile, sono d'accordo con te anche su quello. Viva viva Mario Draghi, che ha fatto un'operazione che per ora sta pagando. Da Sebastiano Berisoni l'augurio di una buona serata. Domani parleremo anche del rapporto banche e imprese, quando riusciranno a girare i soldi anche all'economia reale. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.